ciò non mi resti per colei un'ombra di pensier. Vo divertirmi, vo ridere e scialar. Ah, signor Conte, sappiate che Rosina è innocente e ha torto. Non m'annoiar, già so quel che vuoi dirmi. Non conoscete però la bontà di Rosina, perché voi, dopo averla ingannata, tradita, abbandonata, estinta la volete, ed ella invece, rasegnata, amorosa, per voi sempre sospira, piange, si strugge. Ma dove, dov'è la mia Rosina? Voglio al suo piede. Ma, oddio, chissà, vi lotto, dei non tardar, t'affretta, vola cara Elisetta. Eccomi vado. No, no, ferma, che io stesso a lei non andrò. Oh, vedete che flemma, che ci vuole con voi altri omenacci, pria le donne.